papilloma virus. Non fatevi trarre in inganno dal nome, non si tratta di un unico virus, bensì, pensate, di una grande famiglia composta da circa 100 ceppi diversi, di cui una ventina associati allo sviluppo del cancro al collo dell'utero, un tumore che fa ancora grandi numeri e che rappresenta una minaccia seria per la salute della donna. Per questo credo sia importante che ciascuna donna abbia le idee ben chiare sui controlli da fare per proteggersi da questo rischio. Esiste, come sapete tutti, un vaccino che è stato dato alle dodicenni. Ne parliamo oggi insieme alla dottoressa Maria Giovanna Luini, medico responsabile della comunicazione scientifica IEO. Buongiorno dottoressa. Buongiorno. L'HPV, alias papillomavirus, è un virus che abbiamo detto può essere responsabile del cancro del collo dell'utero e anche di un'ampia gamma di patologie, tra cui condilomi, lesioni cervicali e neoplasie anogenitali. Esiste un vaccino che viene somministrato alle ragazze che hanno compiuto 12 anni. Sì, il papilloma in sé, come è stato già detto, è un insieme di virus. Ne esistono tanti totalmente innocui. Noi veniamo a contatto col papilloma con un'altissima probabilità, circa il 75% delle donne sessualmente attive ha avuto almeno un incontro con il papilloma virus. Quindi in sé il papilloma è di solito benigno. Esistono alcuni ceppi di questo papilloma che invece possono provocare il tumore del collo dell'utero. Pensate che quasi il 100% dei tumori del collo dell'utero arriva da un'infezione da ceppo cattivo di papilloma. Che sono identificati con dei numeri. Sì, sono sì, 4. Per esempio esiste il 51, esiste il 16, cioè ci sono alcuni ceppi di papilloma che noi conosciamo che possono nel tempo provocare lesioni pretumorali e, se non curate, lesioni tumorali. Quindi possiamo immaginarci la famiglia, questa grande famiglia dei papillomavirus, come un esercito. Sì. Voi avete individuato alcuni tiratori scelti, sì, sì. Che sono più pericolosi di altri, sono quasi da cui bisogna conoscere per sapersi difendere. Poi la ricerca magari ne troverà altri, ma al momento questi 4 identificati sono dei tiratori scelti e quindi c'è una stretta relazione tra l'infezione provocata da questi ceppi e la possibilità di sviluppare un tumore. Per questo il vaccino. Sì, sì. Per fortuna conosciamo quali virus siano pericolosi e quindi possiamo identificarli con un test che si chiama HPV test, è del tutto simile al Pap test. Durante la visita ginecologica non si fa solo il Pap test, si chiede al ginecologo di ricevere anche l'HPV test, la ricerca del papilloma virus. Il vaccino che cos'è? Il vaccino non fa altro che prevenire l'infezione da papilloma. Allora, somministrare il vaccino a ragazze molto giovani, prima dell'inizio dell'attività sessuale, vaccino che è mirato a quei ceppi di papilloma che sono, tra virgolette, cattivi, significa fare prevenzione, perché con il vaccino non si svilupperà comunque l'infezione da papilloma, quindi non si svilupperà il tumore del collo dell'utero. Il vaccino in linea teorica può essere somministrato a tutte le donne. L'importante ovviamente anche è che hanno abbiano una vita già un'attività sessuale. Sì, sì. È chiaro che se la donna ha già fatto un test HPV e sa di non avere mai incontrato il papilloma, in particolare il papilloma di ceppo cattivo, può scegliere liberamente di farsi il vaccino. Qual è il punto? Il punto è che sono state garantite dalle ASL e dalle regioni alcune campagne di vaccinazione gratuita in tutta Italia e queste che campagne hanno un po' delle modalità diverse da regione a regione. Sì, sì, sì. Alcune cambia un po' allargano la fascia d'età. Cohorte. Sì, sì, sì, sì. Però di fatto si va a vaccinare gratuitamente quella fascia di età, anche magari abbastanza larga, di giovani e giovanissime ragazze che ancora non abbiano avuto un'attività sessuale frequente, quindi una probabilità alta di incontro con il virus. Cosa è successo però? Che purtroppo in tutte le regioni la risposta alle proposte delle ASL e delle regioni stesse è stata bassa, cioè non è stato capito il messaggio delle campagne di vaccinazione gratuita. Quindi il numero di giovani ragazze vaccinate è ancora piuttosto basso, nonostante la vaccinazione sia un esempio straordinario di prevenzione del tumore. Allora, è un po' come la vaccinazione sì. per l'epatite B. Certo, è una vaccinazione, cioè si somministra qualcosa, poi dipende da vaccino a vaccino, comunque qualcosa che impedirà l'infezione da virus. Possiamo dare la definizione di un vaccino anticancro? Il vaccino anticancro è una bellissima realtà molto rara, perché in verità il vaccino anticancro, se parliamo di papilloma, è un vaccino antivirus, virus responsabile del cancro. E la copertura è una copertura quasi assoluta, quindi il vaccino protegge e impedisce la formazione del tumore del collo dell'utero. Altri vaccini anticancro sono un po' diversi perché sono diretti, per esempio, a cellule tumorali. L'efficacia non è ancora così alta. Dottoressa Luini, lei diceva c'è stata una risposta bassa, la campagna non è stata capita. Sì. Secondo lei sì. C'è stata un'incomprensione o è stata invece più un timore nei confronti sì. dei vaccini? Innanzitutto il vaccino in sé crea timore, l'idea di vaccinarsi. Perché? Perché se scelgo di vaccinarmi, scelgo di ricevere qualche cosa, una sostanza chimica, che chissà cosa mi farà. In realtà gli effetti collaterali dei vaccini sono improbabili, sono molto rari, e il bilancio rischio-beneficio è a favore del beneficio, cioè pensiamo a cosa significhi evitare del tutto il rischio di avere il tumore dell'utero, è chiaro che il beneficio è evidente, visto che il papillomavirus è purtroppo molto diffuso anche nei suoi ceppi più cattivi. Un'altra questione delicata è l'età delle bambine, delle ragazze da vaccinare con la campagna gratuita, perché è molto difficile parlare di attività sessuale in famiglia dove ci siano ragazze e bambine dodicenni e tredicenni. Si pensa certo. sempre che a quell'età non abbiano attività sessuale. La verità è che l'età media di inizio dell'attività sessuale nei nostri paesi si sta abbassando e arriva verso i 12 anni, per cui realisticamente vaccinare ragazzine di 12-13 anni funziona perché effettivamente previene l'infezione. Detto questo, però, ripeto, tutte le donne, a prescindere dall'età, potrebbero scegliere di vaccinarsi. A quel punto la vaccinazione non è gratuita. La nostra preoccupazione, qui alludo all'Istituto Europeo di Oncologia, va verso tutte quelle bambine che, non avendo capito il messaggio, loro oppure le loro famiglie non l'hanno capito, non hanno ricevuto gratuitamente questa vaccinazione, quindi hanno perso una straordinaria opportunità di prevenzione. Allora, perché il vaccino è parecchio costoso. Il vaccino è costoso perché sono tre somministrazioni e arriviamo anche sui 900 euro, insomma dipende, sì. dipende dal... Per una famiglia è pesante, che ha magari sì. due sì. o tre figlie è da pesante. Vaccinare, sono fuori dall'età, sì. diventa, è vero che è un investimento per la salute, sì. ma mi però rendo conto che a conti fatti può sì. essere veramente un elemento che ci allontana da questo progetto. Ma infatti è uno dei motivi per questo nostro progetto dell'Istituto Europeo di Oncologia è che il vaccino costa e quindi ci sono famiglie che non possono affrontare questa spesa né per una né per per più due. Figlie. Sì. E quindi il progetto qual è? Io insieme a Croce Rossa Italiana, al Comune di Milano e alla ASL di Milano vuole vaccinare gratuitamente quelle giovani ragazze che siano state escluse per scelta o per disinformazione dalla precedente campagna gratuita. Quindi è una seconda chance. È una seconda chance che noi stiamo offrendo. Cominceremo dalle ragazze nate nel 97, ma intendiamo ovviamente ampliare questa, diciamo, il numero delle ragazze che saranno vaccinate. I vaccini costano, l'abbiamo detto, quindi chi ci aiuta a comprare i vaccini? La Fondazione Rotary Milano, che sta già facendo raccolte fondi mirate e che ci garantirà l'acquisto dei vaccini. I vaccini saranno somministrati dalla Croce Rossa Italiana e l'Istituto Europeo di Oncologia fa la direzione scientifica e l'informazione. Sì, sì. Voglio anche dire che non è una cosa che riguarda solo Milano. Iniziamo da Milano e andremo in altre città al centro e al sud, perché è chiaro che questa deve essere un'opportunità garantita a tutte. Dottoressa Luini, prima di salutarla, abbiamo centrato, ed è giusto farlo, la nostra attenzione sulla donna. Sappiamo però che il papillomavirus interessa anche, può colpire sì. anche gli uomini, tanto che quando si parlava dei primi anni in cui si parlava anche della possibilità di vaccinare le ragazze, molti dicevano ma vacciniamo le ragazze e vacciniamo comunque una popolazione al 50%, perché tutto l'altro universo, che è l'universo maschile, con cui l'universo femminile entra in contatto ed è proprio attraverso l'attività sessuale sì. che si trasmette l'infezione, rimane scoperta. È vero. Allora, noi donne abbiamo la possibilità di verificare la presenza dell'infezione attraverso il test. Com'è possibile, cosa può fare un uomo, come può scovare l'infezione? E poi rimane comunque sempre, anche sì. nonostante lei ci ha raccontato di questa nuova opportunità che lo IEO con la Croce Rossa e il Rotary danno alle ragazze, ma rimane sempre comunque l'universo maschile al momento rimane escluso. Sì. Sì, e questo che purtroppo. Cosa può comportare? Quello è un problema perché è vero, andrebbero vaccinati anche gli uomini, i ragazzi, i maschi. Negli Stati Uniti iniziano sì. esatto, a vaccinare anche i maschi, ma è più che giusto perché in realtà il papilloma ha una trasmissione talmente facile, anche attraverso il contatto cutaneo per esempio, che non ha molto senso escludere certo. i maschi dalla vaccinazione stessa. Allora, una diagnosi come quella dell'HPV test per l'uomo non esiste. È un peccato perché in realtà poi l'uomo può ammalarsi per esempio di tumori del testacollo o anche più raramente del tumore del pene o della zona perianale intorno all'ano, ammalarsi di tumore, quindi il papilloma fa danno anche all'uomo sì. ugualmente. La cosa importante sarebbe quella di comunicare questo rischio anche agli uomini senza drammatizzare perché si spaventano. Esatto, ma anche incitare alla vaccinazione uomini e ragazzi, perché è vero che le campagne al momento li escludono, è anche una questione meramente economica e anche una questione legata alla probabilità del tumore. Il tumore del collo dell'utero purtroppo è un tumore ancora troppo frequente. Certo. Idealmente noi dovremmo arrivare a vaccinare ragazzi anche. E ragazze. È anche un gesto di responsabilità da parte dell'uomo, però. Il profilattico, l'utilizzo del profilattico può in qualche no. modo no, vero? No, perché la trasmissione del papillomavirus avviene proprio molto semplicemente anche attraverso le mucose o la pelle, quindi il profilattico certo non risolve. Solo in questo caso. Solo in questo caso, sì, sì. Dottoressa Luini, la ringrazio per essere stato con noi, per questo approfondimento su questa grande famiglia che, come abbiamo detto, conta al suo interno degli elementi particolarmente agguerriti. Esiste un vaccino, lo IEO dà una seconda possibilità alle ragazze che non hanno approfittato della campagna vaccinale del Ministero della Salute di sottoporsi a vaccinazione, un progetto che toccherà più città d'Italia. Grazie alla dottoressa Luini, buona grazie. Giornata. Grazie.